fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Ed eccoci qui, entriamo in diretta sabato 14 di luglio del 2018. Questa è sempre Risto Radio Conventi, sono sempre Master Nick live dal convento di Lonato. E per dimostrarvelo, guardate che vi faccio anche sentire cosa succede nella nostra pista. Senti che roba. Ecco, volevo solo darvi prova che è tutto vero, che non siamo registrati e non siamo in un altro posto. E ad esempio adesso continuiamo nel nostro giro del nord centro Italia, soprattutto che stiamo facendo in questi minuti, in questa serata, grazie ai nostri festeggiati, mentre fuori si tirano dei cuscini, ma noi facciamo finta di nulla. E diamo il benvenuto a una ragazza che diciamo così è qui solo in parte. No, ma Ina è veramente il tuo nome all'anagrafe? Sì, sì. Ah, scusa, credo fosse il diminutivo di qualcosa. No, allora niente, ce l'abbiamo tutta qui, non l'abbiamo lasciata a metà, metà a Bolzano, è rimasta tutta qui, è venuta tutta qui per noi e si è, come dire, concessa nella sua completezza al 100% di lei. E le diamo... Detta così suona male, però. Eh? Cioè, detta così suona male. Sì, è concessa alla festa. Alla festa, okay. Alla festa. Okay, no, non vogliamo, non vorremmo mai. Anche perché sarebbe anche complicato concludere un qualsiasi tipo di rapporto con la Ina senza rimanere abbagliati dalla sua maglia. È per quello che, cioè, diciamo che ha messo questa maglia che è stata rinfrangente per evitare che chiunque si avvicini. E esatto. Cioè, guardino, che non esatto, guardino. Esatto, che nemmeno la guardino, perché proprio fa riflesso e vi acceca. È il nuovo, diciamo così, è la nuova frontiera dello spray urticante. Invece di usare lo spray urticante, voi mettete le maglie che mette la Ina e siete sicure che nessun malintenzionato vi verrà nemmeno a conoscere, neanche a salutare, perché proprio non ci arrivano, vi rimangono a 4 metri di distanza minimo, perché oltre perdono la vista. Insomma, non la devo più mettere sta maglia, eh? No. Cioè, perché il senso non era quello, cioè l'ho messa. Dipende dai tuoi obiettivi, dipende dai tuoi obiettivi. Li voglio accecare tutti stasera. Vedi che allora hai fatto la scelta giusta. Quello che conta però, e noi lo sottolineiamo sempre, è che anche per questa settimana manteniamo la nostra tradizione almeno di un ospite da Bolzano, perché noi dovete sapere che ormai abbiamo questa statistica interna per cui c'è sempre un qualcuno che viene a festeggiare da Bolzano ogni settimana, ormai da quasi un anno, ed è bello continuare a mantenerla. E questa sera ospitiamo Ina, che ha un evento importante da festeggiare. Dici un po' tu se te la senti, visto che prima te ne vergognavi. Eh sì, prima mi vergognavo un po' perché non avevo mai fatto questa cosa, che però in realtà è bellissimo. E niente, sono venuta a festeggiare i miei 25 anni perché sono una tappa importante. Ma è certo che è importante. È quella sembra via un po' di mezzo tra i 20 e i 30, capito? Esatto, sembra un po' il discorso di fine anno di Mattarella, però... No, va bene, dai. Va bene. No, dai. Però è vero, cioè un po'... No, è una tappa importante, è in quei momenti in cui uno si siede, tanto ci piace quanto sono interessate le tue amiche alla nostra intervista e a quello che stai dicendo, perché c'è una bella canzone, guarda, andiamo a sentirla subito, c'è una bella canzone, così vediamo se è bella davvero, vediamo. Qual è? E non la conosco questa. È inconfondibile? Oh, io non la so. Giuse Ferrari. Io ascolto solo canzoni tradizionali di City Roll. Ma dai, quindi... Amore Capoeira è arrivata. Ah, Amore Capoeira, adesso è arrivata. Come la favela! Hai visto che vi abbiamo portato in pista? Abbiamo anche perso oltre alla vista, grazie alla maglia di Ina, l'udito, grazie a questo bellissimo urlo. E quindi, no, dicevamo, questi 25 anni, che può essere una tappa per sedersi un attimo e decidere se essere ancora bambino o diventare grandi. Esatto. Tu cosa hai scelto? Di rimanere bambina. Perfetto, perché... che è più o meno la scelta che fanno tutti. E quando ti deciderai a diventare grande? Intanto, quando metterai magliette di un certo livello? Ma allora, durante la settimana mi vesto in bianco e nero, cioè dai, insomma, lavoro. Perché fai la steward alla Juventus Stadium? No. Ah, ok, scusa. No, in realtà lavoro in un centro giovanile che non c'è. No, credevo lavorarsi in uno zoo con le zebre, quindi dovevi vestirti di... Ma non posso abbagliare i bambini. E quindi bianco e nero, no? No, scusa, dov'è che lavori? In un centro giovanile. in centro giovanile sarebbe? Cioè nel senso, un dopo scuola, un dopo scuola, ok, perché io centri giovanili li conosco come volontari, non come stipendiati. Beh, oddio, cioè è un metà tra volontari e certo, diciamo che così, vi trattano da stipendiati, ma a fine mese, esatto, a fine mese vi ricompensano da volontari. Tutti volontari. Ok, quindi una specie di dopo scuola. Esatto. Ma lavori full time? No. Ok, quando ti dico. Loro sono contentissime di stare qui con te, perché stanno via, mi stanno mollando. Sì, ti stanno da sola perché sono veramente la pista, partecipano alla festa con passione. Vogliono ballare, almeno salutare, almeno fare gli auguri alla Ina, dai. Salutate, presentatevi. Auguri tesoro. Auguri Ina. Almeno i vostri spontanissime, tra l'altro, proprio le veniva dal cuore. Veniva dal cuore. E dai, almeno i vostri nomi, diteceli un po'. Anastasia. Silvia. Anastasia, che è proprio nome da principessa austriaca o no, non era di quella russa anche. Forse. Vabbè, insomma. Comunque ah sì, brava, scusa, ho un po' di confusione tra le varie principesse che esistono. Ti perdoniamo. Comunque è un nome molto principesco. E scusa, ho perso il tuo nel... Silvia rimembra sempre, non c'è altro da fare. E bene, il vostro rapporto, ovvero molto forte con la Ina, è molto partecipato. Siete amiche, conoscenti, avete conoscenti, l'abbiamo conosciuta questa sera in giro. Avete solo scroccato un passaggio, cioè cerchiamo di capirne di più. No, stasera le ho conosciute per sbaglio. Infatti si è già pentita, si è già pentita di tutto questo. Anche loro forse, probabilmente. Anche loro, può essere. Vediamo che è un gioco che si pente di più, probabilmente. Ma tra l'altro penso che siete solo voi tre stasera, giusto? Sì. Ecco, perfetto, quindi hai scelto una compagnia eccezionale per festeggiare il tuo compleanno. Sono meravigliose. Allora dai, dici perché sono meravigliose. Perché hanno sempre voglia di fare festa, di andare in pista. Sì, non l'avevo notato. Per uscire dalla porta non l'avevo notato, guarda, ho mandato uno sotto a tenergli le gambe ferme pur di tenerle qua perché sono incontenibili. E tra l'altro, ma cosa si balla tra l'altro? No, non si sta ballando niente, la pista è spenta, quindi potete anche rimanere. E no, volete davvero andare a ballare? Le liberiamo, non so, Ina. Che vuoi fare? Una che batte sui vetri, quindi non capisco bene la dinamica. Perché lei è a caccia, cosa, è a caccia, è a caccia. Però va bene, cioè, però loro non guardarli perché sono malati. Cioè, ammalati addirittura. Sono malati anche loro. Li ha già indirizzati, malati. Va bene. E allora, come hai festeggiato i tuoi 25 anni? Al di là di essere venuta qui da noi, hai organizzato qualcos'altro? Ha pensato qualcos'altro? Ma no. E allora, aspetta, liberiamo ste due disperate perché sennò non ce la facciamo più. Aspetta. Che le liberiamo, così, adesso vanno a ballare, ne approfittiamo. No, niente, nel frattempo, vabbè, ospitiamo un nuovo amico che è venuto, vi conoscete? No, beh, bene, quindi potrebbe essere che vi conoscete anche voi stasera. Per caso. Vai, presentati anche tu allora. Buonasera. Fine. Un nome almeno. Daniele, benvenuto Daniele. Ma vi conoscete davvero o no? Mai vista? No, allora lui. Spiega. No, ma smettila. Allora, lui è l'amico del mio collega di lavoro che ho incontrato qua per caso, tra l'altro. Ah, quindi siete venute in tre e ve ne tornate in 15 praticamente. Sì, praticamente sì, vi unite, esatto, vi unite a un altro gruppo e. È così, ma è bello, è la sensazione di famiglia, un po' di convivialità che si crea nel nostro locale. Il Torige che si riunisce. Certo. No, stavamo dicendo, quindi avevi qualche desiderio particolare, qualche piano in testa per festeggiare i tuoi 25 ma o no, prendi quello che viene. Ma sì, una serata tranquilla, sono anche fin troppo sobria, quindi. Sì, almeno te la godi anche di più. Ma di mattina almeno me la ricordo. Esatto, ma è stata sul Garda la prima volta? Dimmi un po' anche dal punto di vista sociale e geografico, come mai tanti di Bolzano vengono qui? Cioè nel senso, cos'è? Cioè il massimo del lago che abbiamo è il lago di Monticolo, quello di Caldaro. Vabbè, al di là di quello, però cosa... In Alto Adige, non in Trentino, nel senso che... Ok, ma dico, cosa vi aspettate o cosa volete da questa zona? Cioè cosa cercate? La movida, ah, perché là tutti fermi? A Bolzano tutti fermi? Non c'è tanta movida. E a voi piace uscire, fare festa, divertirvi? Ma cosa stai dicendo? A Trento c'è movida? senza non bere. È vero, non è vero. A Trento c'è movida. Sta mentendo, non è vero. Anche a Trento. Intanto qui continuiamo a far ospitare, entrare amici e. Ma lui lo so. Ah, ok. Ok, esatto. Ma che radio è questa? È la nostra radio interna. E no, dicevo che quindi insomma diamo spazio anche a tutti. E festeggiamo, ricordiamolo, il compleanno della nostra Ina, 25 anni. Auguri, Bernarda. Bernarda, che è questo bellissimo nome. Assolutamente sì. E dai, velocissimo, prima di chiudere, vuoi dire qualcosa, mandare un messaggio, dire boh, visto che hai sempre detto che ti sarebbe piaciuto provare la radio? Non lo so, cioè sono un po' inquietante in realtà dalle facce che vedo, quindi non so se vorrò lavorare in la radio. Questo. Ah, ok, ma non è sempre così. Non è sempre così, non è sempre così. Mi piace un sacco, cioè è bello la comunicazione con le persone. Bene, bene, bene, mi fa piacere. Dai, dici qualcosa allora, manda un messaggio, saluta qualcuno. Niente, saluto tutti quanti quelli che mi vogliono bene, anche quelli che mi odiano, perché in realtà se le frega. È importante, è importante. E quelli che importunano. E quelli che importunano, ok, li salutiamo anche noi. Grazie mille, ragazzi, e auguri ancora a Ina. Ciao!